prova, sta là. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E non ti sei fermato mai. Giri, giri per il mondo, ma non sai che cosa vuoi. Stai giocando la tua vita e non guardi intorno a te. Ma un bel giorno, gira mondo, tu ti fermerai da me. Vabbè, facciamo il giro del mondo oggi, almeno per cominciare, visto che siamo sempre qua e saremo qua per tutta l'estate davanti a questo microfono in via Monterosa Radio 24 con Giorgio De Luca, il nostro autore, Paolo Goleoni in regia, Giovanni Melchione in redazione. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Dove sei? Sono sotto la galleria. Che meraviglia. Però tiene, come tiene questo telefono, eh? Almeno tu che vai in giro mi porti un po' a spasso, almeno idealmente. Senti, invece oggi ti faccio fare io un bel giro del mondo, vuoi? Vai. Perché Carlitos Tevez è stato presentato al Boca in tra non due, neanche quattro, neanche sei, mille ali di folla per Carlitos. Y los hinchas de Boca te vamos a hacer dos pedidos muy chiquititos. Hay que ganarle a River y hay que salir campeón. ¿Puede ser? Por eso vine. Ahí está, fuerte el aplauso para Carlitos Tevez. Esta noche juega Tevez, en un rato en la Bombonera. No hay mejor día como este, no se compara con nada. Primero porque es mi gente. Segundo porque no tengo que hablar en inglés ni en italiano. Y tercero porque estoy entre familia, así que le puedo errar que no van a decir nada. Beh, ieri abbiamo parlato dei grandi addì, no? del calcio internazionale, da quelli in elegante di Casillas a Pirlo che va in America, Schweinsteiger che lascia il Bayern per il Manchester United, Gerrard che già conoscevamo, a Lampard, eccetera. Oggi parliamo di un grande ritorno e a me, ti devo dire, a me piace Pierluigi Carlitos che torna a vestire una di quelle che considero, al di là del fatto che è nel suo cuore, però una delle maglie, poi parliamo anche di maglie più belle del mondo, quella del Boca. Assolutamente, quando l'aspetto sentimentale si combina con quello tecnico è sempre meglio. E la presenza di Maradona, l'acclamazione da parte dei tifosi del Boca è una conferma, una certificazione. Siamo di fronte a un giocatore del popolo, un giocatore del Boca che torna a casa, quindi è una bella storia, e devo dire che la Juve questa bella storia in qualche modo l'ha ballata, l'ha cantata. Sì. Ha avuto un atteggiamento secondo me molto, molto elegante di tutela nei confronti di un giocatore che ha fatto così tanto la Juve. E quindi è una bella storia proprio tonda. Sì, bravo, tonda e perfetta, bravissimo Pierluigi. Caro Genta, secondo lei la coppia titolare della Juve sarà Dybala Morata, scrive Massimiliano da Udine, poi parliamo anche di questo perché Morata è stato, perché Dybala, non Morata naturalmente, è stato presentato alla Juventus. Tu conosci l'italiano, italiano-spagnolo? Quello di Immobile? Bravo, quello di Immobile, eccolo qui. Sì, ci provo un pochino. No, sono molto felice perché Siviglia è un equipo molto importante. Prima parlavo con Monchi e lui ha detto è come una famiglia, e per me questo è molto importante. Dopo un anno passato in maniera negativa, per me è importante questo anno entrare a far parte di questa famiglia, e sono molto felice. Itagnolo, se ce n'è uno, ride tanto. Grande Ciro. Grande Ciro, speriamo che abbia fortuna almeno lì dopo una stagione complicata, parla già di famiglia, eccetera, eccetera, però insomma, se Cerci è stato un buco nell'acqua, Immobile è stato un mezzo buco nell'acqua al Borussia Dortmund. Vediamo cosa combina a Siviglia, dovrebbe avere più campo, ce lo auguriamo tutti, magari anche Conte. Sai, poi ieri Conte è stato chiamato in causa anche da Giovinco, no? Dopo aver segnato 3 gol con il Toronto. Spero che Conte mi abbia visto. Io continuo a pensare che chi va all'estero non abbia tanto appeal nei confronti dei cittadini. Non capisco perché, sinceramente. Sì, francamente nel caso di Giovinco già la strada era in salita in Italia, quindi figurati lì. Canada, sinceramente, poi la rispetta è indiscutibile, gli facciamo gridare in bocca al lupo, ma insomma non... sono anch'io piuttosto scettico sulle possibilità di rientrare nel giro della nazionale. Sì, lo siamo tutti. C'è Gaetano Da Luca che vi sms 349-238-6666, lo ricordo raramente, ma questo messaggio è il numero per i messaggi sms. C'è Gaetano Da Luca che domanda: ma secondo lei un ritorno in patria di Messi avrebbe prodotto le stesse scene di giubilo che ha prodotto Tevez? Io credo di sì, dai. Sì, ma per motivi diversi, però la domanda è molto interessante, secondo me, nel senso che se Tevez, che la FIA prova a contare, non vale Messi dal punto di vista tecnico e dei risultati di questi anni, riesce però a scatenare questo livello di dipigine, è perché è un giocatore che ha delle caratteristiche speciali, al di là del fatto che è bravissimo, poi sì. Non è che stiamo sottovalutando la parte tecnica, assolutamente. Però secondo me il messaggio provocatorio dell'ascoltatore coglie il segno, nel senso che sicuramente Tevez è un giocatore del popolo. Bravo Pierluigi, hai detto la cosa perfetta, è un giocatore del popolo, cosa che Messi non riesce ad essere, almeno per il popolo argentino, anche se né uno né l'altro hanno vinto un mondiale, però davvero Carlitos è il ragazzo della Bombonera, è il ragazzo di Fort Apache, è uno che appartiene alla gente. Tante volte abbiamo detto, se non ovviamente non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista emotivo, è quello che più si avvicina in qualche modo a lui, no? Diego Armando Maradona. Posso farti una domanda che non c'entra niente col calcio? Certo. Hai sentito di Berruto che ha spedito a casa, sì, alla vigilia delle finali di World League che cominciano domani, poi domani ne parliamo anche, magari. Ha spedito a casa 4 giocatori forti, compreso il capitano Travizza, perché erano fuori a Rio a far baldoria alle 2 del mattino. E c'è Gianni da Verona che chiede a te: ma un Oscar per Berruto, no? Sì. Cosa ne pensi? No, penso che dal punto di vista tecnico non so dirti se la portata del sacrificio sia... Beh, è qualcosa, così, perché Zaitsev e Travizza sono due giocatori importanti. Ti sentiamo un po' male, Pierluigi. Questa è una tradizione, ma andiamo con il traffico, poi parliamo anche di Ranieri, che è il nuovo allenatore dell'Leicester, quindi ha trovato una panchina in Inghilterra 11 anni dopo la sua panchina con il Chelsea, quindi torna in pista in Premier League Claudio Ranieri. Parleremo di Dybala, parleremo di magliette. A proposito, qual è la maglia nuova che vi piace di più? 800 24 00 24, cominciate a prenotarvi fin da ora. Traffico. Battaglia, andiamo da Nando San Vito. Nando. Tutti convocati. Tutti convocati. No, penso che quello che ha fatto Tevez qua è stato incredibile. Ha vinto tantissimo, ha fatto tanti gol, ha giocato 2 stagioni grandissime. Poi sul numero, durante la mia carriera ho giocato sempre con il 9, rispetto che adesso ci sono i giocatori che hanno il suo numero e io ho fatto la mia scelta. No, ho preso il numero 21. Da quando io stavo giocando con il Palermo cercavo sempre di pensare a giocare, il mio gruppo di lavoro pensava a quello che era il futuro. Il giorno che mi hanno detto che la Juventus mi voleva, io ho fatto la mia decisione, l'ho detto subito che voleva venire qua per tanti motivi, e uno di quello è che mi piace sempre vincere e tutte le cose che faccio, e penso che questa sia la squadra perfetta per cominciare a vincere la mia carriera. Questo era Pablo Dybala, che la Juventus, per rispondere a Lori da Milano via SMS, è stato pagato 32 milioni di euro dalla Juventus, ma una cifra che secondo me è in linea con le quotazioni attuali, perché se il Toro ha rifiutato, come ha rifiutato, un'offerta da 20, da 15 per Maximovic, la Roma 25, dalle notizie di oggi, rifiutati 25 per Romagnoli, ne chiede 30 la Roma al Milan, prima offerta di 20, la seconda da 25. Se El Shaarawy, giocatore che sono due anni che ha problemi, come due anni e mezzo che ha problemi, come sapete, è stato pagato 16 e presentato ieri dal Monaco. Beh, per Dybala, che è stato insieme a Felipe Anderson della Lazio la grande novità del campionato scorso, forse ci stanno. Mi sorprendono un po' i punti di riferimento di Dybala, Riquelme e Ronaldinho. Questi sono i due giocatori che Dybala apprezza di più. Riquelme, che si è ritirato da poco, stanno provando a convincerlo a tornare, e Ronaldinho, che giocherà, mi confermate, no, che Ronaldinho giocherà insieme no? Ha firmato per il Fluminense, quindi non va più a giocare in Turchia con Eto'o. Vabbè, prosegue insomma il Sunset Boulevard di questo giocatore. Mi chiedono anche via SMS quanto la contropartita per Tevez alla Juventus. Allora, ufficialmente sono 6 milioni e mezzo di euro che la Juventus incassa per Tevez, che però torneranno secondo accordi per Guido Vadalà, giovane talento del Boca che invece va alla Juventus, 3 milioni e mezzo per il prestito, e poi ci sarà un diritto di riscatto morale, è una sorta di scambio con Tevez. Allora, gli idoli di Dybala, questi qui, ve l'ho detto prima. No, è emozionante, perché penso che non è una cifra alta, quindi mi fa piacere sapere che la Juventus ha fatto questo investimento per me, perché sicuramente crede in me e pensa che posso darle tantissimo. E idolo da piccoli, ho avuto sempre Riquelme, Ronaldinho, erano due giocatori che piacevano tantissimo. È un bravo ragazzo, Riquelme e Ronaldinho, i giocatori che gli piacevano di più. Ha scelto, l'avete sentito prima, non il numero 9 con il quale ha sempre giocato, ma che la Juventus ha impegnato, ma il numero 21, che non è un numero casuale, perché è il numero che indossava Andrea Pirlo. Dicevamo di Ranieri che è tornato ad allenare dopo l'esperienza non positiva in Grecia, alla guida della nazionale Grecia, torna in Premier League, dove guiderà il Leicester. 800240024 è il vostro numero verde. Poi facciamo anche un giro di ritiri, poi ve lo dico subito, parleremo anche di Tour de France, dove ieri abbiamo avuto l'avrete sentito nel corso della diretta, una martellata fra capo e collo, che è la notizia del problema di Ivan Basso. E ieri mi è capitato di dire in un servizio, adesso ieri tra l'altro eravamo d'accordo con Ivan Basso per avere il suo solito consueto diario da giro e tour, cosa che abbiamo da molti anni, perché è un nostro amico, è un amico di Radio 24. Ieri c'è stata questa notizia. è tornato a Milano, sarà operato a Milano. Attendiamo soltanto un nuovo appuntamento telefonico per avere notizie molto migliori. Andrea Sorrentino da Repubblica, ciao. Come ciao, stai? Buongiorno a tutti. Come stai, bene. Andrea? Bene, bene, bene, bene, bene. Qui stiamo parlando di Tevez che torna al Boca, di Immobile che parla litagnolo, di Ranieri che torna in Inghilterra. Di supervalutazioni sentivo, io ho rinunciato a capire qualcosa, perché sono tornati i soldi dappertutto tranne che nelle nostre tasche. Mi spieghi perché? Perché c'è nell'aria una sensazione che nei prossimi anni le norme del fair play finanziario saranno attenuate. Ma va, ormai, strano, perché ormai gli sceicchi si sono stancati di applicare le norme dell'UEFA e di vedere sempre vincere gli stessi in Champions, cioè Barcellona, Real o Bayern, non si scappa, o vincono loro o comunque arrivano sempre in semifinale, gli altri tagliati fuori. Quindi è chiaro che c'è qualcosa che non funziona in questo fair play finanziario. Anche soltanto per il fatto che Barcellona e Real Madrid, che dominano, hanno insieme oltre 1 miliardo di debiti con le banche, ma sui debiti con le banche l'UEFA non interviene, quindi si può andare avanti tranquillamente. Quindi è chiaro che qualcosa sta cambiando. Ma se Andrea, io sono molto critico, cioè molto critico. Cioè, fair play finanziario è qualcosa che mi lascia abbastanza perplesso, perché sono denari che comunque chi li ha, gli sceicchi, i ricchi russi eccetera, immettono nel sistema calcio, quindi è difficile dire di no a un'iniezione di denaro che finisce nel sistema, no? No, ma certo, ma qui il discorso è che anche le norme del fair play finanziario, è il caso di dirlo, hanno fatto parte delle politiche di Michel Platini per garantirsi rielezioni e voti in più, perché in questo modo lui fa vedere che cerca di proteggere anche i piccoli, così come ha fatto con l'allargamento della Champions League, e quindi è tutta base elettorale che si allarga. Insomma, i metodi poi sono sempre quelli da parte dei padroni del vapore, e Platini ha pensato che con il fair play finanziario avrebbe allargato la sua popolarità, infatti ci è riuscito, ma ci stiamo rendendo conto che alla fine le cose cambiano di poco, gli equilibri sono rimasti immutati, e chi mette molti denari sul calcio, come gli sceicchi che sono entrati in Europa da qualche anno, comincia a lamentarsi, quindi in qualche modo le cose cambieranno. Alle ipervalutazioni che elencavi io aggiungo quella più pazzesca di tutte, i 60 milioni che ha speso il City per Sterling. 63 mi pare. Sì, ma stiamo parlando di cifre assurde. Sterling vale meno della metà, secondo me. Lo scorso anno il City prese lo sconosciuto Mangala dal Porto per oltre 40 milioni, un difensore che poi è andato anche malissimo. Insomma, è chiaro che nel calcio internazionale qualche strano affare si fa lo stesso, come anche si fa in Italia, e quindi le ipervalutazioni, le plusvalenze aiutano i bilanci di tutti, e quindi anche nel calcio internazionale, che non è per niente virtuoso come noi crediamo. Ma no, ma certo, al tempo stesso anche in Italia secondo me qualcosa si sta muovendo, le nuove risorse che stanno immettendo Milan e Inter sul mercato mi sembrano la cosa più importante dell'estate, e io spero che in qualche modo cambino gli equilibri del campionato, perché sinceramente, a parte magari adesso i juventini si arrabbieranno, ma il dominio incontrastato della Juventus giornalisticamente e non solo fa benissimo al campionato. No, guarda Andrea, non c'è niente di peggio per lo sport di un del fatto di leggere un romanzo con il nome del colpevole sulla prima pagina, cioè è successo nel basket, è successo nel rugby, è successo in molti sport, e non c'è niente di peggio di qualcosa di scontato. Quindi tutto questo, Milan e Inter sono ancora a metà del guado, se non prima, secondo me, perché le squadre le devono ancora davvero rafforzare. Adesso hanno fatto dei ritocchi, ma mancano ancora parecchie cose, al Milan in difesa, all'Inter al centrocampo in attacco, quindi, ma comunque mancano ancora un mese e mezzo alla fine del mercato e se ne vedranno di cose, senza contare che non si è ancora mosso il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, insomma i grandissimi club cominceranno adesso a muovere qualche pedina, e un po' di rimescolamento ci sarà. Secondo me è un mercato molto interessante quest'anno. Molto. Ad agosto ci divertiamo. Pierluigi, ci sei? Sì, da 9 minuti e mezzo non vi ho ascoltato con grandissimo interesse. No, veramente, da Dybala in poi, è quello che faccio sempre. Io ascolto Radio 24, quando non intervengo io ascolto Radio 24, quindi è in un sommergibile? È in un sommergibile della Fossa delle Marianne, dov'è? Pierluigi è in un sommergibile della Fossa delle Marianne. No, sono fermo in un posto nostro che è stato approvato dal dottor De Luca come un audio che si sente non per 9 minuti in una persona, quindi spero si senta, perché se no lo penso sì, 9 minuti di sì. No, si sente. Sono d'accordissimo sul fatto che la Juve era stata l'Italia, sono d'accordissimo sul fatto che chiaramente un po' di incertezza farebbe bene. Quest'anno mi sembra al momento che la distanza che si è appianata è quella tra il secondo posto e il settimo, cioè mi sembra che dietro la Juve ci sia una serie di squadre che sono tutte in questo momento sullo stesso piano, perché quelle che erano più in ritardo, cioè le milanesi, si sono mosse molto, quelle che erano più vicine, cioè Roma e Lazio, fin qui si sono mosse poco, quindi mi sembra, oggi faccio fatica a dirti se siano più forti le milanesi o le romane, ad esempio. Le romane, Pier, le romane. Ancora le romane, poi. Le romane. Però siamo lì, secondo me. Ma non ancora, secondo me non ancora, però dibattito aperto 800240024. Vi ricordate Gretzko? Ah, Gretzko, sì. Ve lo ricordate? 5 maggio 2002. Bravo. Gretzko. Cosa fa oggi? Si occupa di teatro, mi pare di aver capito. Bravo Sorrentino, bravo. Ora si leggo la domanda e la risposta. Ora si occupa di teatro, quando nasce l'amore per la tragedia? Non il 5 maggio, forse 5 maggio, però lui dice è una passione che coltivo da anni, senza specificare quali anni, certo. Ma sempre nel tempo libero. Il teatro è un grande spettacolo come il calcio, e come in campo servono impegno e dedizione. Anni fa ho deciso di aprire uno spazio nella mia città, che non ricordo quale sia. Le cose vanno molto bene, in questi giorni stiamo rinnovando tutti gli spazi, a dicembre procederemo con una nuova inaugurazione. Re Lear, Amleto, Macbeth, qual è il suo ruolo preferito sul palco? Non scherziamo, risponde Gretzko. Nel mio teatro recitano solo attori veri, poi i professionisti. Io organizzo il programma, faccio i calendari, mi occupo di marketing. Qua mi fermo, la battuta mi viene fin troppo facile. Ragazzi, il nome di Gretzko è legato a quella partita drammatica dell'Inter di quel giorno indimenticabile per tutti i nerazzurri, però quel giorno la tragedia l'ha già recitata la sua migliorità. Sbagliò soltanto lui, tutta la squadra, però sai, lui è legato a quell'episodio, cioè inutile fare. Certo, ma lui è la... ricordo l'attacco dell'Inter in quella partita, che giocò con un 4-2-4 e gli attaccanti erano Conceição, Vieri, Ronaldo e Recoba. Così scese in campo quell'Inter di Cupe per andarsi a prendere lo scudetto, e invece prese 4 gol dalla Lazio, che non aveva nulla da chiedere. Partita tra le più strane a cui io abbia assistito nella mia vita, forse la più strana, e dicendo strana dico anche sospetta, perché è una partita che è troppo dall'andamento troppo particolare, però ormai è tutto prescritto, quindi certo Andrea, tu c'eri Pardo quel giorno lì? No, io facevo Udinese Juve. Eri sull'altro campo. Ero sull'altro campo, che invece fu la partita, diciamo, vabbè, adesso definirla noiosa sarebbe ridicolo, nel senso che chiaramente i tifosi della Juve erano in fibrillazione, ma fu una partita dal punto di vista dell'andamento che al quarto minuto era già chiusa, cioè era ovvio che la Juve vincesse quella partita, e quindi tutta la tensione, ecco, teatrale, drammaturgica, come sarebbe a Gretzko, era dalle parti di Gretzko, dalle parti dell'Olimpico, erano praticamente solo radioline a un certo punto, perché l'Udinese non tirava mai in porta, la Juve si era portata avanti col lavoro dopo 5 minuti, quindi insomma era soltanto un'attesa dell'Olimpico. Sì, e invece all'Olimpico andò in un'altra maniera. Un'ultima cosa prima di salutare Sorrentino: dove va il povero Balotelli, che 12 mesi fa era la grande speranza azzurra, e adesso Firenze o Besiktas? Bookmakers dicono Fiorentina a 3, West Ham a 7, Milan e Samp a 9, permanenza Liverpool a 2,25. Questo dicono i bookmakers. Purtroppo per Mario Balotelli si apre adesso una seconda parte di carriera in squadre di medio, se non medio basso livello, perché è quello che purtroppo lui si è guadagnato negli ultimi anni scellerati di carriera, e adesso cercherà in quell'ambito. Già ci sono i tifosi della Fiorentina che non lo vogliono, abbiamo visto oggi, hanno fatto degli striscioni Balotelli, uomo senza onore, Firenze un tevole, sì. ma che insomma che gli ultra facciano il calcio mercato mi sembra un'altra di quelle cose grottesche. Bravo. Molto italiane, insomma. Bravo, bravo. I dirigenti facciano quello che devono fare. Secondo me Balotelli è un giocatore che se ha un minimo di motivazione, sappiamo che le ha sempre piuttosto ondiva, che può dare il suo contributo in una squadra di medio livello che aspira a qualcosa di più come la Fiorentina, o mi viene in mente la Sampdoria in Italia, ecco. Sì, sì, sì. Quello è il target adesso di Balotelli. Certamente. E credo che sarà quello. Deve ricostruirsi da lì. Ciao Andrea, grazie, a presto. Ciao. Abbraccio, abbraccio a tutti, ciao ragazzi. Un abbraccio, ciao. Ci fermiamo per la borsa. Pierluigi, tu non ti muovere dalla piazzola. Non mi muovo. Non muoverti dalla piazzola, borsa, poi torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Ed ecco che torniamo, soprattutto con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Qui comincio a chiedere, adesso avete visto tutte le magliette della Serie A, vi domando quale vi piace di più. So, è banale, però mi sembra ci sia una sorta di ritorno al passato. Vedo molte cose sulla scia del classico. L'Inter è tornata ad avere la maglia dell'Inter e non più una maglia nera gessata. La Juventus ha cambiato sponsor tecnico e ha una maglia molto classica, molto, molto tradizionale, così come quella del Napoli, che è stata l'ultima in ordine di tempo ad essere svelata. Poi l'interesse si riversa sulle seconde, sulle terze, dove succedono cose strane. Pierluigi Pardo naturalmente è sempre collegato con noi nella piazzola, giusto? Sì, ho cambiato piazzola, ho approfittato di questi 4 minuti per fare un piccolo passetto avanti, se no grande. Fermo. Come si sente? Ce la possiamo fare, forse ce la possiamo. Ok, dai, ce la facciamo a parlare con Massimo da Palermo e Gianni dalla provincia di Ancona. Subito, Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto, secondo me, la prima maglia più bella, secondo me, è quella della, anche se io sono juventino, devo dire che è quella della Roma. Quella della Roma di quest'anno? Sì, sì, sì, perché però, secondo me. Che è però molto... sudata diventa un po' violetta. Vabbè, questo certo è chiaro, perché la maglia della Juve è la classica maglia Adidas che da sempre abbiamo visto indossata, abbiamo visto diciamo nel Milan, classica striscia da Adidas, diciamo. Pardo, sei d'accordo? Ma guarda, a parte che Adidas secondo me l'anno prossimo si arriva di più, però quello che ho capito quest'anno è il primo anno, ha fatto una scelta abbastanza tradizionale. L'anno prossimo mi dicono che ci sono le cose bellissime in arrivo, poi sai, certo, il bello del brutto è soggettivo. La maglia della Roma, devo dire, del Restyling Nike, secondo me è molto bella. Molto bella. Molto bella, secondo me, anche la maglia quella con la striscia diagonale tipo Peñarol, bianca, l'anno scorso, la seconda maglia. Sì, sono d'accordo. A me piace molto, per dirti, anche il Verona, maglia del Verona di quest'anno che è pulitissima, però blu notte col colletto giallo, se non sbaglio, è proprio molto bella. Quella della Fiorentina a me piace molto. Quella della Fiorentina, secondo me è veramente molto bella. Ma insomma, secondo me sono tornati i soldi nel calciomercato ed è tornato il classico delle maglie. Sì, bravo. Dell'estate. Bravo Pier, torniamo a Massimo, che voleva dire qualcos'altro. Io volevo dire che i soldi sono tornati perché i conti non vengono controllati, secondo me. Ah, per questo? Secondo me sì, perché io penso che oggi le società di calcio non vengono controllate abbastanza rispetto a quello che sono le normali aziende che lavorano nel mercato, diciamo, nazionale, dal piccolo imprenditore al grande imprenditore. Cioè sono dei banditi. Sì, secondo me, sinceramente. Ma intanto tra 2 anni arriveranno nuove norme secondo le quali qualcuno dice 3, qualcuno come Tavecchio dice 5 sono le squadre che potrebbero iscriversi al campionato stando alle nuove norme in arrivo. Non credo che questi soldi possano girare in maniera piratesca. Sì, alla fine la si può dire in maniera, diciamo, un po' più sofisticata, come sorrettino prima, no? sulla maggiore flessibilità nel valutare il surplus finanziario, la si può dire in maniera un po' più brutale, come il nostro amico da Palermo, ma la sostanza è quella. Dici? Perché sicuramente. Beh, insomma, sicuramente è una fase, diciamo, culturale, vogliamo dire, nella quale il fair play finanziario fa un po' meno paura e l'austerity fa un po' meno paura rispetto a uno o due anni fa, perché sennò la spiegazione non c'è, cioè non è che abbiamo, non è che siamo successi dei shock esogeni clamorosi che abbiamo vinto al fotocalcio, manco più il fotocalcio, cioè non è che siamo in una fase così clamorosa, cioè gli inglesi hanno un motivo, che è il nuovo contratto pazzesco dei diritti televisivi che gli darà, sì, ma anche quello italiano non è male, Pierluigi, anche quello italiano è mica male, non è male, l'abbiamo sottolineato, sai come la penso, secondo me tutte le polemiche, secondo me abbastanza pretestuose che sono state fatte sulla gestione, quella è una delle cose che funzionano meglio secondo me nel calcio italiano, cioè l'aumento del 40% in 3 anni mi sembra che vada piuttosto bene, sì. Quindi ma l'abbiamo affrontato 1000 volte questo capitolo, detto questo, questo aumento secondo me non basta a spiegare la crescita degli investimenti che ci sono in questo momento, nel caso del Milan c'è una spiegazione esterna, nel caso dell'Inter invece per esempio è un mistero, diciamo abbastanza apertamente, perché l'Inter veniva data anche dagli esperti come Bellinazzo in difficoltà dal punto di vista del fair play finanziario, e invece con una serie di operazioni anche devo dire molto creative, delle quali bisogna dare merito ai suoi dirigenti, mi pare che stia facendo un mercato molto forte. Sì, la creatività senza soldi però serve a poco, e l'Inter di soldi ne ha spesi molti, ma sappiamo che Toir comunque ha immesso soldi nell'Inter prestandoli al 9% di tasso di interesse. Gianni, provincia di Ancona, poi parliamo anche della terza maglia del Torino che forse a proposito di creatività è la più creativa tra quelle viste quest'anno, come sottolinea Sergio. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, grazie per l'opportunità. A lei. Per quanto riguarda quello che si diceva adesso, io spero che il calcio attualmente non sia usato per ripulire dei soldi che erano sporchi. Spero solo questo, con domani non venga fuori questo. Gianni, è facile dirlo, però non è che si tratta di mandare in lavanderia 100.000 euro, qui si tratta decine di milioni di euro. Porto dei soldi lì, poi fallisco, poi prendo un tassista, gli do il conto mio, questo li va a acquistare i giocatori e me li porta in circolo i soldi che io avevo portato in nero. Può capitare anche questo, così voi siete un giornale economico e non lo so. No, ma possiamo pensare male finché vogliamo, possiamo. Per quanto riguarda la Juve, se posso Carlo, con lei quando conduceva di domenica mi lamentavo già allora del nostro portiere, perché per me dopo che ha fatto l'intervento nel 2007-2008 la schiena ha veramente dei problemi posturali, si vedono chiaramente. Buffon? Sì, le parate che fa, sì, insomma, le cosiddette viva il parco. La cosa che mi lascia problemi posturali, Pier? No, ce l'avessi io quei problemi posturali. Luigi, io sono una. Scusami, ma se tu guardi il gol che ha preso con la Roma, quando ha preso il gol con la Roma, se tu vedi i movimenti che fa all'interno della porta, cioè io che ho 30 anni di più, mi muovo meglio. Cioè si vede, poi c'è da dire anche questo, che la Juve ha cambiato tutto lo staff tecnico, l'unico che è rimasto è Filippi, preparatore di portieri, che non ha mai giocato al calcio, e il nostro allenatore si è portato Landucci, che è un ex portiere, un ex preparatore dei portieri. Io spero che quest'anno Neto giochi titolare, perché anche la finale, parliamoci chiaro, sono state fatte delle parate, ma se guardiamo i due primi, cioè sono delle cose tecniche che un portiere, se si getta con le due mani, entrambi le mani, che è uno slancio inferiore, il pallone lo deve prendere, non lo deve lasciare lì, perché se lo lascia lì è un errore tecnico. Sul primo gol, se tu esci lateralmente non ti puoi fermare a metà strada, devi andare direttamente sulla palla, perché altrimenti tu sei fritto, cioè quelle sono cose tecniche che noi abbiamo preso. No, ma stiamo parlando di però Gianni, se parliamo di Buffon, siamo nel 2015 in Italia, 2015. Un programma di sport, esatto, parlando di Buffon. Per carità, adesso sto facendo ironia. L'ascoltatore ha anche delle ragioni, sicuramente si è parlato molto dei problemi della schiena, dei posturali di Buffon, che sì, non possiamo parlare, mi sembra difficile parlare di problemi tecnici per Buffon, un processo a Buffon che insomma comunque mi fa un rendimento di questo tipo, credo che dobbiamo dire di tanti altri, ecco, tutto qua. Non so, io sono adesso nel napoletano, non so se dobbiamo parlare un attimo della stagione di Raffaele Andukar, della quale a Napoli in questi giorni si parla molto. A me sembra, francamente, a me sembra follia. Ma ripeto, non perché non ci siano queste valutazioni da fare, sicuramente Buffon fa il errore da fatto e probabilmente la causa è quella che dice l'ascoltatore, però se facciamo una valutazione complessiva e facciamo le pulsi, come si dice, a Buffon così, agli altri che gli passavano. No, ma è chiaro, ma se parliamo poi di problemi posturali, di problemi fisici, Buffon ha anche l'età che ha, eccetera, però se cominciamo a parlare di problemi tecnici relativi a Buffon, allora mi sembra vagamente eccessivo. Allora, prima del traffico e prima di tornare sulla questione maglie, quale vi piace di più tra quelle nuove, eccetera eccetera, 800240024, c'è uno ascoltatore che domandava: ma Krasić e Diego dove sono finiti? Risposta pronta di Giorgio De Luca: giocano nel Fenerbahce, dove è andato da un paio di giorni anche Robbie Van Persie. Strada. Leonardo, di togliere il telefono da quella custodia per non farlo bagnare, perché non si capiva niente. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, parlando di nuove magliette, io saluto e ringrazio Francesco Del Vecchio del sito passionemaglie.it. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. E raccolgo un plebiscito sulla terza maglia del Torino, che è quella blu scuro con i bordi granata e un toro che praticamente è sulla pancia del giocatore, dal torace in giù, che è composto dai nomi dei giocatori del grande Torino. Raccolgo un plebiscito totale per questa maglietta, Francesco. Sì, sicuramente è una maglia, insomma, molto evocativa, che poi gioca sui sentimenti, quindi sicuramente raccoglie ancora giudizi migliori. Mm. È una maglia che aggiunge un po' di creatività. Una maglia che sostanzialmente comunque è blu scura con dei bei bordi bianchi e sì, granata, ma ha questo dettaglio che sicuramente non può che far piacere ai tifosi del Torino, ma anche a tutti gli appassionati di calcio. Ci sono i nomi dei giocatori del grande Torino, ma anche nomi più recenti, non so, quello dello scudetto del 76, ma anche quelli finalisti di Coppa UEFA del 92. C'è anche Antonino Asta, Ventini, sicuramente un bel tocco per una terza maglia. Grande idea, Pierluigi, questa? L'hai vista? Sì. Sì, grande idea, devo dire, idea perfetta per qua come Toro, nel senso che diciamo che in quel club lì giocare con i sentimenti, giocare con i ricordi e toccare certe corde viene anche più facile. Quindi complimenti tutti, nel senso che insomma, magari per altri club sarebbe stato più difficile, anche se poi ogni club ha la sua storia, per carità, ci sono gli eroi delle promozioni del Chievo che hanno raggiunto la Serie A, che meriterebbero anche loro di essere celebrati, tanto per capirci, ogni club ha la sua storia, non conta quanto sia stata grande o quanto sia stata eroica o letteraria. Però insomma, le operazioni, guarda, io ho in mente, per esempio, l'anno scorso l'operazione perfettamente riuscita allo Tito sulla sua maglia, sì, da sì, sì, sì, in casa, sì, la maglia bandiera, e quando si riesce a volte si riesce ad unire l'elemento romantico con l'elemento commerciale, poi l'elemento commerciale diventa inevitabilmente una conseguenza positiva dell'elemento romantico, quindi quando succedono cose come queste che giocano con i sentimenti e con il passato, in quel caso lì c'era la famosa Lazio dei meno 9, insomma le cose funzionano molto bene, ma insomma anche altre società hanno secondo me afferrato il concetto. Sì, anche secondo me, ma lo dicevamo prima, Francesco, c'è una sorta di ritorno al passato in molte magliette, Pierluigi ricordava quella del Verona, molto bella, tra l'altro la maglia dell'Inter è tornata ad essere la maglia dell'Inter, soprattutto Inter Milan. Soprattutto Inter e Milan sono tornati un po' alla tradizione dopo che l'anno scorso hanno fatto divagato, le maglie divagato, sì. Parecchio, diciamo. Ma anche perché la prima maglia, cioè sono tre maglie ormai, io mi ricordo negli anni 90 venivano cambiate ogni due anni le maglie. In Inghilterra, che è chiaramente il luogo dal quale tutto inizia, nel merchandising, sapete che in Inghilterra la percentuale di spettatori allo stadio con la maglia originale della squadra è certificata sul 50%, quindi è veramente il posto del merchandising che conta di più al mondo. E lì, insomma, negli anni 90 si comincia ogni due anni a ruotare la maglia. Adesso ogni anno vengono cambiate le tre maglie, proprio perché arriva il commercio, no? Quindi si riesce a vendere ogni anno tre maglie nuove. E, insomma, lo spazio per la fantasia c'è, tre maglie, ma la prima maglia secondo me deve avere una sua forma classica. E la mia sensazione è che quando si fa, come per esempio l'hanno fatto in 3.000 recentemente, dei voli vintage sulla prima maglia, poi anche i risultati non sono straordinari. Poi in realtà ci sono, non lo so, bisognerebbe parlare con Nike, con Adidas, con le altre, con K, con le squadre, sì, con le società che producono. Anche se ti dico, Pier, io non ho niente contro la creatività, soprattutto sulle seconde e sulle terze magliette, perché a me la maglietta camouflage del Napoli, so che molti diventeranno viola per questa affermazione, ma a me la maglietta camouflage del Napoli piaceva parecchio, più di quella di jeans dell'anno scorso, però mi piaceva parecchio. Quindi sulle operazioni su seconde e terze maglie io sono abbastanza d'accordo. Poi c'è Giorgio De Luca che in questo momento mi sta facendo vedere delle magliette orripilanti, che ovviamente sono seconde e terze del Manchester United negli anni 90, che era metà gialla e metà verde, giallo e verde orrendo. Una maglietta del Chelsea che era indossata da Gullit, che era a strisce tipo bianche, cioè azzurre e jeans con le maniche arancioni, una cosa terrificante. Sì, allora, però, aspetta, la maglia dello United gialla e verde in realtà ha un riferimento storico, bella e bella, bella, ha un riferimento storico straordinario, anzi. Nel momento della contestazione qualche anno fa nei confronti dell'attuale proprietà, ricorderete che i tifosi pensavano alle bandiere gialle e verdi proprio, sì, come forma di protesta. Quello c'è, si è capito, si è verificante. Sul camouflage del Napoli io sono d'accordo con te, ci sono due versioni della maglia camouflage del Napoli, sì, cioè, sì, certo, sì, punto, sì, una, sì, portava sfiga, credo venne cambiata, sì, a me piaceva più la prima, devo dire, anche a me, anche a me, quella di Arsenal Napoli 1 ottobre 2012, non ricordo l'anno, però insomma quella di Arsenal Napoli secondo me era bellissima. Poi a un certo punto hanno scoperto che il giallo portava bene, quindi c'è anche questo. La Samp ha una maledizione che però possono stare tranquilli, tipo così il Napoli non si ripeterà perché sono società diverse, ha la maledizione del colletto bianco, no? Sì, che sì, procede, sì. Vero. E adesso, sì, quest'anno il Napoli ha il colletto bianco, ma non sembra niente, sono due storie ovviamente molto diverse. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domani. Ciao. Un discorso che mi piace tantissimo questo. Francesco, sei d'accordo? Sul camouflage, sulla creatività per seconde e terze maglie? Allora, a me la maglia camouflage piaceva particolarmente, la prima versione. Poi diciamo che posso capire chi possa rimanere un po' spiazzato da maglie così ardite, però è ovvio che sulle terze maglie, ma sì, c'è un po' più di spazio per giusto, la fantasia. Giusto, è giusto così. Cioè, io trovavo ripilante la seconda maglia della Juventus di, direi, un paio d'anni fa, quella rosa acceso con quella stella stilizzata, secondo me era orrenda. Sì, dire, quella forse. Diciamo, a me forse il colore era un po' troppo sparato, però a me esteticamente quella maglia, anche quella, non dispiaceva. Non dispiaceva. Dopo un inizio, la prima reazione non è stata molto positiva, devo dire. Poi vedendola in campo, la cosa antipatica è che la utilizzavano molto in casa. Sì. Questo non mi piace per niente. Sì, spero di non rivedere le maglie colore evidenziatore verdi e gialle che abbiamo visto nell'ultima stagione. Diciamo dunque, di maglie colore evidenziatore nella prossima Serie A ce ne saranno. Ce n'è il Verona che è la terza maglia giallo fluorescente, c'è l'Atalanta che è la terza maglia verde fluorescente. Anche la stessa Juve, la seconda maglia è un rosa molto, molto acceso, in più anche del bianco e del fucsia, anche questa un po' estrema come maglia, mentre della Juve, la maglia da portiere, della, insomma, indosserà Buffon, che è grigia, diciamo un grigio melange, con le maniche e le spalle nere e le parti alte del petto nera, che è un omaggio alle maglie che indossava Zoff negli anni 80. Sì, quindi questa era una gran bella maglia. Questa è una grande, questa è una grande idea. Questa è una grande idea. Ricordiamo bene il maglioncino grigio di Zoff con i pantaloncini neri. C'è chi ricorda la tenuta del Barcellona nella sfida con il Milan a San Siro 3 anni fa, e al tempo già sottolineammo come era, no, una delle tenute peggiori che si siano, almeno per me, che si siano viste su un campo di calcio. Ma poi ne parliamo, se volete ancora. Ringrazio Francesco Del Vecchio. Grazie a voi. Ciao Francesco, sito passionemaglie.it. Ci fermiamo per il GR, poi torniamo con Ciro da Napoli, con altri ascoltatori. 80024 0024 il numero verde. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua, primo tempo. Tutti convocati. Convocati. Allora, poi parliamo anche, come ci chiedono gli ascoltatori, di Gigi D'Antoni, capitano della nazionale azzurra, ormai ex NBA, Milano lo sognava, invece lui ha deciso di andare in Turchia al Fenerbahce, alla corte del più grande allenatore europeo, cioè Obradovic, e soprattutto dietro un contratto che chiama 1.700.000 euro a stagione per 2 anni più opzione per il terzo. Obradovic, Fenerbahce, Eurolega, ma anche tanti soldi. Poi parliamo anche, se volete, di un bomber vero, Papis Cissé, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, è quello che gioca nel Newcastle, che era fidanzato con una ragazza inglese e le ha detto: cara, vado in Senegal a trovare i miei. Invece è andata a Parigi per sposarsi. Bene, salta fuori che una moglie ce l'aveva già in Senegal e aveva pure un figlio nato quando lei, la ragazza senegalese di anni, ne aveva 13. Hanno falsificato il certificato di nascita mettendo 3 anni in più sul documento stesso, perché altrimenti per pedofilia rischiava 10 anni di carcere. Vabbè, storia ai confini del calcio e della realtà. Raffaele da Napoli e Ciro da Napoli. Buongiorno Raffaele. Buongiorno Gente, complimenti per la gestione, la ringrazio per il mio comando. Senta, volevo sapere 2 cose, una sul ciclismo e una sul calcio. Volevo sapere come mai, io non ricordo negli anni passati, tutte queste cadute al Tour de France, al Giro d'Italia. Può dipendere da una cattiva organizzazione, da un distreggimento a livello, oppure c'è, non lo so, perché io non ricordo tutte queste cadute continue mettendo a rischio l'incomunità dei ciclisti. Poi, per quanto riguarda sul calcio, volevo sapere, secondo lei, se oggi o domani finalmente ci sarà la conclusione dell'affare Dzeko e la Roma finalmente potrà acquistare un centravanti di classe che risolverà i suoi problemi. La ringrazio e l'ascolto. A lei Raffaele, dunque, Dzeko alla Roma credo che ci vorranno più di 1 o 2 giorni, anche perché le parti erano piuttosto distanti, cioè Roma offriva 10 il supermarket Manchester City dopo aver sborsato oltre 60, 63 se non ricordo male, adesso ne chiedeva 20 per il giocatore, quindi mi sembra che la distanza sia un po' eccessiva per essere colmata in breve tempo. Poi vediamo cosa combina la Roma, cosa combina Sabatini in Inghilterra, perché c'è anche il discorso Salah che ha aperto. Ci sono richieste del West Ham per destro, uno dei giocatori in esubero dalla Roma, insieme a Dumbia e Gervinho, più difficile da piazzare, e insieme a Ljajic. Quanto al ciclismo, Dzeko è partito per la tournée in Asia con il City, mi informa Giorgio De Luca, quindi l'affare è di là da venire. Quanto al ciclismo, a tutte queste cadute, beh no, io ne ricordo diverse negli ultimi anni. Perché sia al Giro che soprattutto al Tour una vittoria di tappa è estremamente importante, si corre a grande velocità, grandi medie molto elevate, con grandi tensioni, Quindi non penso sia un problema di percorsi, ma tra un po' tra poco lo chiediamo a Pier Augusto Stagi dopo aver parlato con Ciro, sempre da Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Una puntata sulle maglie. Maglie. Sulle magliette, voglio dire che oggi il bio marketing è quello che comanda, quindi ci sono degli accostamenti impertinenti. Tipo? Ho visto anche ieri sera una partita di rugby con delle magliette assurde, sembravano se dovessi scendere con una maglia del genere mi metterebbero la maglia della camicia di forza. Ma lei sa che ad esempio a Parigi lo Stade Français ha giocato per passione del proprietario, ha giocato con delle magliette spesso improponibili. No, ma io direi, secondo me è proprio da rosa ad altri colorini del genere. Poi c'è un'altra cosa, che la maglia camouflage, io sono di Napoli, quindi la maglia camouflage di Napoli era proprio una cosa assurda. Ma io ricordo tanti anni fa. A me piaceva. Sì, ma era bella come concetto, ma non da mettere su un campo di calcio, voglio dire. Perlomeno questa è la mia opinione. Una delle maglie più orribili che ricordo era quella là della Roma, che aveva quattro parti, una gialla, una rossa, una bianca. Quella era proprio una cosa assurda. E poi le altre cose, negli ultimi tempi non si riesce a dire né il numero né praticamente il nome del giocatore. Questo è vero, perché quando mettono il numero e il nome in giallo, ad esempio, esatto, in giallo sul fondo bianco, non si vede veramente, cioè non si capisce veramente nulla. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che magari i giocatori della Juventus li conosciamo tutti, però questo accostamento cromatico, su questo lei ha ragione. Io sono abbastanza tradizionalista per quanto riguarda la prima maglia, cioè quella deve secondo me rispettare la tradizione, quella dell'Inter dell'anno scorso. A me sinceramente, ad esempio, era bellissima, ma non mi entusiasmava, perché un nero gessato azzurro non era la maglia dell'Inter. Sono quindi abbastanza tradizionalista sulla prima maglia. Su seconde e terze maglie invece lascio alla creatività di chi le disegna, perché tanto quelle dovrebbero essere comunque un completamento. Ciao Pier Augusto Stagi dal Tour de France. Ciao Carlo. Ciao. Buon pomeriggio. Come stai, Ivan Basso? Hai notizie? Allora, ho parlato poco fa, sta bene, sta bene, è lui che tiene su il morale di tutti, che rassicura, che conforta, che dice domani sarà una bellissima giornata, mi tolgo il pensiero, poi pensiamo... Giornata dell'operazione, giusto, domani? Domani intorno alle 11, ho già avuto un consulto questa mattina col professor Francesco Montorsi, primario del Dipartimento di Urologia del San Raffaele. È stato lì un'oretta e venti, hanno visto tutti gli esami che aveva eseguito ieri all'ospedale di Po. Credo che abbia fatto anche altri accertamenti. Hanno parlato, come mi ha riferito Ivan, l'ha rassicurato. E quindi è pronto per essere operato domani mattina, e quindi per dire, usare le parole di Ivan, domani sarà una bella giornata, perché si metterà alle spalle un bruttissimo shock, un shock che abbiamo vissuto tutti ieri, perché è stato veramente, è stato non un fulmine a ciel sereno, una martellata. Guarda, io ho fatto un servizio stamattina, è stata una martellata violenta, improvvisa, perché io ero dove sono ora, avevamo un appuntamento telefonico, perché come sai benissimo Ivan Basso è nostro amico di questa radio ormai da anni, e tiene qui un diario sonoro dei suoi Tour de France, dei suoi Giri d'Italia. Ieri mattina l'abbiamo sentito, avevamo appuntamento per parlarne nel pomeriggio, e poi verso le 14:50 è arrivata questa notizia, ed è stato davvero uno shock. Però combattente, adesso aspettiamo il prossimo appuntamento telefonico per dire che tutto è a posto e si torna. Aspettiamo solo questo appuntamento telefonico da Ivan Basso per parlarci di persona. Oggi Pirenei? Oggi è la prima tappa pirenaica, si arriva alla Pier San Martin, è una salita la prima volta che viene affrontato dal Tour de France, molto, molto difficile, molto difficile. Tra l'altro è cambiato totalmente il tempo, stamattina alle 8 c'erano 15 gradi, adesso la temperatura è aumentata vertiginosamente, sembrava che venisse a piovere, invece poi è cambiato in maniera repentina il tempo, adesso cielo azzurro, fa molto caldo, sole, quindi va molto bene, devo dire, a Chris Froome, che ama questo tipo di temperatura. Vincenzo forse preferiva il brutto tempo, ma in ogni caso se sta bene va bene anche col sole. La verità è che noi oggi ci attendiamo una risposta importante, dobbiamo capire, lui stesso vuole capire che cosa ha nelle gambe, che cosa può riservare questa seconda parte di tour a Vincenzo. Se sarà solo amarezza come questi primi 10 giorni che sono stati estremamente difficili, complicati, carichi di nervosismo e di tensione. Beh, ma comunque per ragioni strane, Pier Augusto, perché Nibali ha dimostrato di comunque la gamba e la condizione di averle, poi direi quasi questo distacco, che ormai è tanto da From, perché oltre 2 minuti son tanta roba, però sono quasi circostanziali, cioè dovuti a fattori diversi dalla condizione. No, poi quello che preoccupa, infatti l'importante, visto che da oggi in poi ci sarà solo montagne, veramente 3 tappe pirenaiche, 3 tappe alpine, non dico che c'è tutto il terreno per ribaltare la situazione, ma perlomeno per fare un bel tour e guardare Parigi con ottimismo, perché io credo ancora nel podio, detto come va detto. Sì. Non sarà molto difficile ripetersi, anche perché bisogna sperare solo male di Chris Froome, e francamente non voglio arrivare a tanto, però sul podio, se oggi ne uscirà con le ossa aggiustate e quindi col morale rinfrancato, si può sperare. Il problema è che la squadra preoccupa più di ogni altra cosa. Stamattina non è ripartito Lars Boom, che è uno degli olandesi che sono stati presi proprio per la prima settimana insieme a Bestra, e sono state le due grandi delusioni, sono mancati tanti. Non dico niente, potrebbe smentirmi, perché Vincenzo non ama dire queste cose, ma vi assicuro, visto che conosco abbastanza bene lo spogliatoio della Astana, che al termine della tappa di Zeeland, nel secondo giorno del tour, Vincenzo, dico, era un tantinello alterato. Sì, con la squadra. E ne aveva ben d'onde, perché la squadra non ha girato come doveva girare, perché è rimasto veramente isolato, è rimasto da solo, è rimasto letteralmente al vento in una tappa dove il vento era la cosiddetta montagna invisibile, che sono le cose, certo, che è la montagna più dura da affrontare, certo, quelle che il vento ti può fare dei danni quasi irreparabili, certo. E lo vedo, 1:28, lui adesso è a 2:22, 1:28 l'ha perso solo per quella tappa lì, l'ha persa per questo taglio, per questo gioco di venti mostruoso, per il fatto di essere rimasto solo, e poi visto ciliegina sulla torta, se vi ricordate, anche una bella foratura a 20 km dal traguardo, quindi tu dici, tu hai detto un tantinello alterato, vuol dire che era incazzato con una pantera come con i suoi compagni di squadra. Esatto. Questa. Che sono volati gli stracci dentro quello spogliatoio. L'hai detto tu. L'ho detto io. Mentre parlavamo prima di magliette del calcio, e c'è Nicola da Brescia che mi scrive che la maglia della Tinkoff è inguardabile. Ricordo un po' la maglia del Napoli, la seconda maglia del Napoli, no? La seconda, un po', l'hanno un po' sporcata con del fango. Mimetica, è una maglia mimetica, anche a me non piace. Qual è la maglietta che ti piace di più? Non dirmi quella gialla, perché questo lo sappiamo. Guarda, mi hai tolto le parole. Sei veramente pestifero, Carlo. Mi devi anticipare. Allora ti dirò quella della Yam. Della che è Yam. Una squadra svizzera, è di un'eleganza proprio bella, blu, con questo logo blu, bianco e rossa, che richiama un po' la bandiera anche della Svizzera. Il bianco e il rosso della Svizzera, perché la squadra è svizzera, è di un fondo svizzero, di un fondo di investimento svizzero, però è elegantissimo, molto molto bello. La Yam. E storicamente stiamo cazzeggiando, tanto lo facciamo, sì, Antonio, sì, da provincia di Brescia, stia lì, poi andiamo anche in America, ma storicamente la tua maglia preferita qual è? La chic bianca e nera di Saronni o la Gis di Moser? Guarda, ti dico, io ero, devo confessarti che ero moseriano da ragazzino. Quindi la Gis? La maglia della Gis con quel, non so se ti ricordi, sì, quel cono gelato, sì, era veramente inguardabile. Era inguardabile. La chic a livello cromatico era più elegante. Però devo dire che a me piaceva molto quella della Salvarani, anche di Felice. Anche a me. Bravo, bravo. Molto, molto bravo. Devo dire Salvarani. Forse perché ero proprio bimbetto, quindi sono un po' romantico. E poi è stato il mio grande campione, Felicione, che oggi, vedi che andiamo quasi così, ma oggi ricordiamolo. Grande Felice, 50 anni fa, 14 luglio 1965, Felice Gimond vinceva a 21 anni il Tour de France. E oggi è l'anniversario. E quindi... Hai fatto bene a ricordarlo, Pier Augusto. Senti, un'ultima cosa: c'era un ascoltatore che chiedeva, ma le cadute continue a Giro e Tour non sono una novità di quest'anno? Non sono dovute al fatto che i percorsi sono più pericolosi, sono dovuti al fatto, credo, che le velocità sono molto elevate e che la tensione è tanta? Le ragioni sono due. Uno, il livello qualitativo del gruppo è cresciuto molto, sono tutti molto molto competitivi, tutti molto molto preparati e tutti vogliono dire la loro. Due, sono tanti corridori, perché fino agli anni 80, tanto per dire, quando eravamo ragazzini noi, un Giro d'Italia, un Tour de France, partecipavano 120 corridori, oggi sono quasi 200, sì. Quindi le strade... In più quella posta in palio, la posta in palio è elevatissima. I direttori sportivi dicono i 22 direttori sportivi, che sono gli allenatori di queste 22 squadre, dicono: ragazzi, mi raccomando, tutti avanti. Ma tutti avanti non ci possono stare. E quindi da qualche parte qualcuno va nei prati, qualcuno fisicamente va nei prati o nei fossi, è normale. Devo dire che qualcuno ci va involontariamente, devo dire anche un po' maliziosamente che qualcuno ci finisce perché ci rimane. Perché esagera. Esatto. Qualcuno ci finisce perché si esagera. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Esatto. Ciao Pierino, ciao Pier Augusto Staggi dal Tour de France. Rapidamente Antonio, provincia di Brescia, poi Stati Uniti. Antonio, buongiorno. Mi sente, buongiorno. Buongiorno, dica. Volevo che mi spiegaste tutto il vostro entusiasmo nel continuare a parlare di uno sport dove il più buono, come dicevo prima ai suoi colleghi, è pieno come un uovo. Cioè, quale? Nel senso, il più buono, il più bravo, l'hai drogato come è pieno come un uovo in quel senso lì. Cioè, come diciamo noi come battuta a Brescia, il più bravo ha fatto 20 anni di galera. Sta parlando di ciclismo? Sì, esatto, stiamo parlando di ciclismo, suppongo. Ma mi sembra, Antonio, sì, stiamo parlando di ciclismo. Guardi, credo che questo sia abbastanza un luogo comune, giustificato, perché ci siamo bruciati le dita molto spesso in passato. La mia sensazione, se devo dirlo, è che adesso sia un ciclismo molto più pulito rispetto al passato, e questo lo documentano le medie, lo documentano i tempi, lo documentano gli esami molto più sofisticati cui i corridori sono sottoposti, il passaporto biologico, il continuo monitoraggio, ma soprattutto l'andamento delle corse. Quindi non lo so, poi se vogliamo cambiare canale quando c'è il Giro d'Italia o il Tour de France perché siamo rimasti scottati, liberi di farlo. Simone Sandri, Stati Uniti. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Ciao, siamo qui per commentare l'addio di Datome all'NBA che ha dato al Fenerbahce, 1,7 all'anno per 2 anni più opzione per il terzo, e Berinelli che ha pure scelto come dice qualcuno, i presidenti morti, no? Quelli che stanno stampati sui dollari, ne prenderà tanti nella sua nuova casa. Sì, Berinelli ha monetizzato una carriera che negli ultimi anni gli ha regalato diverse soddisfazioni, ovviamente il titolo NBA nel 2014 con gli Spurs. Ha scelto di dire sia ai Kings, che è una franchigia un po' strana, dove ci sono abbastanza problemi, ma nello stesso modo c'è un proprietario che ha problemi a spendere, che ha voglia di portare i Kings ai livelli dell'asse di Francesco Jakovic e Chris Webber, non è facile ovviamente per una serie di problemi, per una serie di motivi, e anche perché a West, nel West è difficilissimo anche se vuoi fare la first season, perché c'è molto, ovviamente c'è, sappiamo tutti che c'è molto più talento a Ovest che ad Est. Ci sono un po' di contraddizioni nella squadra di Bellinelli ed è, diciamo, piena di punti di domanda. Detto questo, è abbastanza interessante vedere quello che può succedere. Ci sono dei giocatori di talento indiscusso come Delato Scasi, hanno firmato anche Rondo. Bellinelli comunque sicuramente ha fatto una scelta anche giusta, perché è di dire di nuovo a 3 anni a 19 milioni è abbastanza difficile, sinceramente. Assolutamente. Poi c'è anche Bargnani che è andato a Brooklyn, non cambia città, cambia maglietta. Di questo però ho l'impressione che parleremo un'altra volta molto presto, Simone, perché ho finito il tempo. Ci sentiamo nei prossimi giorni per continuare questo giro mercato NBA che è in continua evoluzione e i nostri italiani da quelle parti sono interessati, compreso Danilo Gallinari. Io ringrazio Simone Sandi da New York, Giorgio De Luca il nostro autore, Paolo Corleoni in regia, Giovanni Melchiorre in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, si aspetta solo il fischio, ecco.